Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda l'Europa, già avete sentito nel corso del GR, gelata sulle borse, ripeto, non una cosa devastante né così preoccupante, però un calo di un punto percentuale dopo le parole di Jean-Claude Juncker, che è il presidente dell'Eurogruppo lussemburghese, ma soprattutto ha gelato le attese di un accordo possibile sulla Grecia in questa settimana. Ricordo che oggi c'è stato un incontro tra Samaras, leader greco, e Juncker. Domani vi sarà l'incontro sempre tra Samaras e Hollande, quindi il presidente francese. Venerdì sarà la volta di Angela Merkel. È un po' il giro delle chiese che sta compiendo Samaras per convincere sostanzialmente tutti i principali partner europei che non potrà la Grecia tagliare 12 miliardi e mezzo, 13 miliardi in banalmente 2 anni, ma ha bisogno di 4 anni. Perché dico che Juncker ha gelato mercati e ha anche fatto ripartire lo spread? Perché ha detto nessuna decisione sugli aiuti alla Grecia verrà presa prima di ottobre, aspettiamo il rapporto della Troica, quindi ha frenato sulla possibilità che da questo tour di Samaras possa arrivare poi un via libera alla Grecia, non un ammorbidimento, perché comunque i tagli restano sempre, anzi sono anche aumentati nell'intenzione del governo greco i tagli, però avere più tempo. Lo spread italiano, ossia la differenza tra quanto costa noi indebitarci e quanto, come interessi, quanto non costi la Germania, era sceso a 403 punti, quindi quasi sotto la soglia dei 400 punti, adesso è risalito a 420 dopo le parole di Juncker. Di questo parleremo nel corso del programma. Tra l'altro non c'è solo la Grecia, c'è la Spagna. Il governo spagnolo probabilmente venerdì darà il via libera all'ipotesi di una bad bank, che, ossia di una banca cattiva, ma non nel senso che le banche possono essere cattive o buone, ma nel senso che si prenderà tutti in carico tutti i crediti tossici, cioè quei crediti che ha concesso Bankia. Sostanzialmente Bankia è la fusione di tante casse di risparmio spagnole che erano molto molto esposte sui mutui in un mercato, quello del mattone spagnolo, che è andato in bolla. È chiaro che se tu presti soldi per comprare casa a prezzi che poi crollano, difficilmente questi soldi poi li riesci a avere, ed ecco perché sono crediti tossici, crediti che Bankia non rivedrà più, prestiti che non rivedrà più. Ebbene, questa bad bank si farà carico di tutti i crediti tossici e a quel punto sarà la prima fase per ottenere il prestito europeo. Sono 100 miliardi, la prima tranche dovrebbe arrivare a novembre, ma da quello che si capisce sarà probabilmente accelerata. Venerdì infatti si terrà un incontro a livello tecnico dei rappresentanti della Troica e quindi Fondo Monetario, Commissione Europea, BCE, a Madrid, e alla Banca di Spagna, la Banca Centrale Spagnola. Resta comunque chi è meno pessimista dopo Moody's di ieri, Monti e Passa da Rimini nei giorni scorsi. Meno pessimista, per esempio, il commissario europeo agli affari economico monetari Olli Rehn, il quale ha detto: sono meno pessimista sulle prospettive dell'euro rispetto alla primavera scorsa. La BCE ha un ruolo fondamentale nell'assicurare la stabilità del sistema finanziario dell'area euro. E poi ha detto: faremo prestiti ponte ai paesi con tassi alti, devono essere sostenuti con finanziamenti ponte. E ha elogiato Mario Monti: ha fatto molto in poco tempo, come dire, forse che c'è stato chi ha fatto poco in molto tempo. 349-238-6666 per i vostri sms. Le altre notizie in breve, e poi parliamo anche di benzina, perché col caldo, con gli italiani tappati in casa o in macchina, che la benzina ha sfondato i 2 euro per azione, magari i 2 euro al litro. E c'è chi dice: attenzione, non è vero, in realtà questa soglia psicologica dei 2 euro era già stata superata, non è che la cosa ci faccia sentire tanto meglio, chi se ne frega, l'importante è che il problema è che è sopra i 2 euro per litro. 349-238-6666, dicevo, le notizie in breve. Fatemi leggere un messaggio. A me piace leggere le critiche, perché insomma sono quelle più sfidanti e anche più costruttive delle volte, però un messaggio lo voglio leggere. Tappati in casa nelle ore più calde per difenderci dall'affa, ci fate compagnia e ogni tanto esclamiamo che bella radio. Stefania e Massimo, grazie a tutta la radio, a tutti i tecnici, agli assistenti, ai giornalisti che ci stanno lavorando sempre, ma a maggior ragione in questo periodo. In realtà è facile lavorare con l'aria condizionata quando fuori ci sono 40 gradi. Le borse, dicevamo, negative, ma niente di preoccupante. Meno 1% Milano, bene Fimeccanica più 2,20, Fiat più 1,70, Intesa più 1,40, Pirelli più 0,40. Chi perde? Cali non drammatici, meno 2% Prismian, cioè l'ex Pirelli Cavi come Parmalat, Atlantia meno 1,70 come Enel e Fiat Industrial, quindi camion e trattori. Popolare di Milano meno 1,60 come Salvatore Ferragamo, 1,5% lo perde Eni, ma anche Tenaris, Mediolanum e il Monte dei Paschi e Telecom Italia. Euro a quota 1,2473, devo dire che oggi Milano perde assolutamente in linea con le altre borse europee, meno 1,20 fa Parigi, meno 1% fa Francoforte, meno 1,40 fa Londra, quindi tutto sommato, visto che Milano ha guadagnato più di altre borse in questi giorni, non è una giornata così negativa, fatemelo dire. Dal Giappone arriva un vero e proprio dato negativo sul deficit commerciale, la differenza tra quanto il Giappone esporta e quanto il Giappone riesce e quanto il Giappone importa, meno 8% l'export nel mese di luglio. E tra l'altro meno 12% con la Cina, l'import è salito del 2%. Ecco perché il deficit è negativo per 5 miliardi di euro e contro anche un surplus di 60 miliardi di yen in quel caso a giugno. Di Spagna e Grecia parleremo tra un attimo, comunque abbiamo detto. E ancora sull'Italia invece, il sottosegretario all'economia Polillo in un'intervista a QN dice oggi siamo al palo, serve un nuovo patto sociale. Il ministro Barca in un'intervista al Corriere della Sera dice voglio vedere le gru nei cantieri. Su questo è intervenuto oggi anche il vice ministro alle infrastrutture Mario Ciaccia a margine del meeting di CL a Rimini. E ha detto lavoriamo a una defiscalizzazione per le nuove infrastrutture per le quali si accerti che non sono sostenibili sotto un profilo economico e finanziario con l'attuale gravame di IVA. E il presidente Confindustria Giorgio Squinzi ha commentato le dichiarazioni dei giorni scorsi dei ministri Passera e Patroni Griffi sulla seconda tranche di provvedimenti in arrivo a settembre a sostegno dell'economia e ha detto le ulteriori misure a sostegno della crescita annunciate in questi giorni da alcuni esponenti del governo vanno nella giusta direzione. Adesso il tema del terremoto, delle zone terremotate, soprattutto in Emilia. Già ieri avevamo avuto modo di denunciare il fatto che insomma, ci sembrava incredibile che sono ancora 19.000 gli sfollati in Emilia, nelle zone dell'Emilia e parte della Lombardia colpite dal terremoto. Dicevo incredibile che col 30 settembre scadesse di fatto la sospensione dei pagamenti di varie tasse, tra cui l'IMU. Oggi i tre governatori delle zone colpite, in realtà non solo dal terremoto dell'Emilia, ma c'è anche il Veneto, infatti sono Vasco Errani per l'Emilia e Romagna, Roberto Formigoni per la Lombardia e Luca Zaia per il Veneto, hanno chiesto, già avevano fatto un appello ieri sera, che venissero sospese al 30 novembre tutte le scadenze al 30 novembre tutte le scadenze di adempimenti tributari, fiscali e contributivi. E poi per chi continua a avere problemi a rientrare a casa sua o a far ripartire l'azienda, uno slittamento ulteriore al 30 giugno 2013. questo, questa mattina da Oscar Giannino, il presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani. Si deve intanto riallineare la scadenza, non è settembre secondo noi, ma novembre. Poi a novembre bisogna fare un altro provvedimento che riconosca il rinvio di tutti i pagamenti alle imprese che hanno e continuano ad avere danni tali da avere problemi nella produzione e ai cittadini che hanno le case in incipiti perché non possono pagare l'IMU. È una questione di equità. Ho parlato con il governo, io sono convinto che il governo comprenderà questa posizione e rapidamente interverrà per promuovere azioni attraverso provvedimenti legislativi. Naturalmente noi stiamo parlando di un terremoto che per la prima volta ha colpito un'area così intensamente abitata da imprese e imprese anche proiettate all'export a livelli di eccellenza. E stiamo parlando di un terremoto che si innesta in una crisi pesantissima. Io penso che non ci sia bisogno di nessun commento, cioè come cavolo si fa a chiedere a chi, in particolar modo i 19.000 ancora sfollati, di pagare l'IMU, poniamo, per una casa che non è più agibile. Io, visto il disastro, la sospenderei e basta, anche per chi è rientrato in casa ma deve far fronte a tutto un insieme di problemi, ma a maggior ragione se non puoi rientrare a casa tua. E non lo so, oggi giustamente l'Agenzia delle Entrate, ieri ce l'avamo presa con Beffera, dice insomma noi non abbiamo alcun potere decisionale sull'eventuale proroga degli adempimenti fiscali per i territori colpiti dagli eventi sismici. La tempistica dipende da provvedimenti legislativi, cioè è il governo o il Parlamento che deve intervenire. Noi operiamo, continua l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze. Beh, Ministro Grilli, immagino che pertenga lei, visto che il Dipartimento delle Finanze, fate sta circolare, non so quale sia la parte tecnica, un emendamento, mi sembra che basti anche semplicemente una banale proroga, ma insomma usciamo da questo impasse che non fa onore a nessuno, a maggior ragione se ci dice che c'è uno sforzo per far ripartire l'economia. Ecco, cerchiamo di farla ripartire soprattutto in chi ha pagato senza avere nessuna colpa, come i terremotati. Abbiamo anche oggi la rubrica che fa arrabbiare alcuni ascoltatori, ma cos'è questa crisi? Io spiego sempre, ormai è 6-7 mesi, è che la crisi noi la raccontiamo per come la viviamo, la vediamo, per quello che è per il 99% delle persone, poi c'è una casta di happy few, di pochi felici, che invece della crisi non vede niente, o vede un'altra crisi. Ecco perché usiamo Pretolini un po' sbeffeggiante, vai. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Oggi insomma c'è la classifica dei presidenti di regione più pagati tra indennità e rimborsi. Insomma, al primo posto Roberto Formigoni, 14.700 euro al mese. Segue Nichi Vendola dalla Puglia, 14.500. Raffaele Lombardo, Sicilia, 14.100. Roberto Cota, Piemonte, 12.400. Renata Polverini, Lazio, 11.700. I meno pagati. Beh, insomma, Enrico Rossi in Toscana prende la metà di Formigoni, 7.500 euro, ma anche la metà di Nichi Vendola e quasi la metà di Lombardo. Catiuscia Martini, Umbria, 7.000 euro, Vasco Errani, Emilia Romagna, 7.700 euro. Ora io vorrei sapere perché il presidente della Lombardia, poniamo, prende 14.000 euro, quello dell'Emilia Romagna 7.000, perché il presidente della Sicilia o della Puglia prendono 14.000 euro e quello dell'Umbria o della Toscana 7.000. Non capisco, non mi sembrano regioni così diverse quelle che ho citato, né giustificato dal PIL della regione o dall'efficienza della regione. L'Emilia Romagna è tanto efficiente quanto la Lombardia, e voglio dire l'Umbria o la Toscana sono tanto efficienti, se non di più, della Puglia di Nichi Vendola, ma tant'è. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Ieri ce l'aveva segnalato un ascoltatore, in realtà è proprio vero, i consiglieri del comune di Pescara pretendono di avere consiglieri, di avere biglietti gratuiti per assistere domenica alla prima partita di campionato tra il neopromosso Pescara e l'Inter. È una decisione che va presa con urgenza, c'è la crisi e giustamente i consiglieri si sono mossi. Nonostante si registri già il tutto esaurito, si appellano all'articolo 26 del regolamento comunale che li vuole presenti per vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto. I vigili del fuoco non servono a niente, no. La società replica che non è più possibile concedere al comune 150 biglietti gratis come avveniva fino all'anno scorso, anche perché Pescara è in A. Comunque, la richiesta dei consiglieri ha suscitato l'indignazione dell'associazione Carrozzine Determinate. Praticamente sono disabili che avevano dei posti per vedere la partita e ne avevano 100, il Pescara Calcio gliel'ha ridotti a 25. Allora, se ho ben capito, i 100 posti per disabili sono scesi a 25, però ci sono 100 biglietti richiesti per i consiglieri del comune di Pescara. Io farei una bella cosa: se volete che la politica esca da questa immagine poco edificante, chiedete i biglietti e girateli ai 75 disabili che non possono entrare. Populista, demagogico, forse, ma almeno no, non fate questa bella figura. Comunque, un applauso all'articolo 26 del regolamento comunale di Pescara che vuole i consiglieri presenti per vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li mette fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà. E invitiamo con quest'ultimo appello tutti i pescaresi che ci ascoltano a scriverci per capire che la vorremmo seguire bene sta vicenda, perché partire così dopo l'estate si parte già male. Se qualcuno a Pescara ci sente, qualche consigliere comunale, ci chiami. Dice, io non ho nessuna intenzione di chiamarli domani, perché devo invitare. O uno chiama, se vuole, ci fa sapere che fate così, girate i biglietti ai disabili che non hanno più i biglietti per entrare allo stadio. Quanto al vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto, allora uno può arrivare prima della partita, uscirsene e poi tornare alla fine della partita, no? Che è sta cosa, un vigile del fuoco. Vabbè, dai, parliamo della Grecia, della Spagna e della ballata dell'euro. Allora, parte in salita il Tour della Speranza, il viaggio a Lourdes, se mi permettete la battuta del presidente Samaras greco, no? Che va a chiedere oggi a Juncker, domani a Hollande in Francia e dopodomani a Angela Merkel di avere più tempo per fare i tagli. Tagli che nel frattempo sono aumentati, perché da 11 miliardi e mezzo in Grecia si è già passati a 13 miliardi e mezzo come obiettivo, perché i conti non tornano e l'economia va ancora peggio. 13 miliardi e mezzo da spalmarsi in due anni, teoricamente Atene chiede di avere 4 anni di tempo per questi tagli. C'è un buco comunque nelle entrate fiscali e nei contributi previdenziali di altri 2 miliardi di euro, ecco perché si è passati appunto da 11 miliardi e mezzo a 13 e mezzo. Dicevo che parte in salita Vittorio D'Arolda a Berlino, dove segue tutti i fronti, il fronte greco, il fronte tedesco, oggi il fronte mi sembra più che altro quello di Bruxelles e le parole di Juncker che hanno gelato molte attese. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi, sì, esattamente come dicevi tu. Qui a Berlino c'è una situazione molto complicata di fronte alla Grecia, cioè sostanzialmente la Merkel deve decidere se salvare la sua coalizione o salvare la Grecia, perché ha una coalizione completamente divisa su questo problema. I liberali che rischiano di non superare il 4%, perché qui il sistema è proporzionale con lo sbarramento al 4%, sono appunto su questo limite e quindi puntano tutte le loro forze sul rigore, l'austerità, a punire le cicale del sud. Poi ci sono gli alleati della Merkel, quelli bavaresi della CSU, anche loro puntano dritto alla Grecia come esempio per tutti gli altri della zona mediterranea. Allora il tentativo è quello appunto di mettere a tacere i falchi e cercare poi di avere una situazione più tranquilla, nel senso di puntare al 2013, anche se qui siamo già in campagna elettorale, per avere una nuova coalizione con i socialdemocratici, che sono quelli invece più aperti alla possibilità di dare nuovi aiuti. La questione è come dare più aiuti, perché l'intervista che oggi Samaras, che arriverà venerdì, ha dato appunto alla Bild, che è il giornale più popolare ma nello stesso tempo più conservatore e anti-greco che ci sia in questo momento in Germania, lui dice: dare più tempo alla Grecia non vuol dire dare più soldi. Secondo invece degli studi che stanno circolando qui a Berlino, questo vorrebbe dire altri 20 miliardi di prestiti ad Atene, e il problema è chi ha la forza di andare nei vari parlamenti nazionali e di dare nuovi soldi. Questo è il vero quesito. Non è un quesito da poco, cioè capire se si tratta semplicemente di allungare il tempo, cioè che questi tagli la Grecia li farà, ma li farà in un tempo più lungo, oppure se nel frattempo bisognerà tirare fuori altri soldi per la Grecia, non è una differenza da poco. Sembra però a molti osservatori, Vittorio, che la missione di Samaras si complichi non solo perché Juncker ha detto no, aspettiamo la Troica, cioè Banca Centrale Europea, Fondo Monetario e Commissione Europea, e prima di ottobre non decidiamo niente sulla Grecia, ma perché insomma anche Parigi non è sicuramente tra virgolette più morbida rispetto all'utilizzo della Banca Centrale Europea per i paesi con l'alto spread e altre amenità, però non vuole, è molto più rigida della Germania nell'ipotesi di fare un'unione fiscale e politica dell'Europa. Cioè la Germania dice va bene, si può fare anche un salvataggio, però uniamo a questo punto le decisioni sulle politiche di tasse, fisco, bilancio e quant'altro devono essere prese dall'Europa e sempre meno dai singoli paesi. La Francia su questo non ci vuole sentire. No, esattamente. La Francia è in questo momento la più ostile a nuove cessioni di sovranità e quindi è effettivamente quella che pone un limite a questa visione europea. Domani Hollande viene a Berlino per cercare di avere una posizione comune sulla Grecia, ma si è già deciso che non ci sarà praticamente conferenza stampa. Il presidente francese ha deciso che riceverà soltanto qualche giornalista francese nell'ambasciata appunto francese, che è proprio a fianco alla porta di Brandeburgo, una scelta in qualche modo che rende insomma la visita un po' in una situazione abbastanza minimalista, perché chi si aspettava qualcosa di più. E evidentemente non si sa ancora quali possono essere le forme di nuovo equilibrio fra la Francia e la Germania rispetto a che tipo di Europa si vuole costruire e quale tipo di sovranità la Francia è disposta a cedere per risolvere una volta per tutti il problema appunto della politica di bilancio comune. Quindi la tua previsione a questo punto è che Samaras tornerà con le pive nel sacco? Samaras secondo me avrà un ancora tempo, cioè la Merkel userà ancora una volta la sua tecnica, che è quella a cui è stata criticata molto, cioè quella di attendere, l'attendismo, è quella appunto di portare sempre la decisione al limite, all'ultimo minuto, e poi appunto salvare, fare appunto l'ultimo tentativo, quello di salvare sempre comunque la Grecia, ma non lo farà se non all'ultimo momento, e quindi non prima di ottobre. Samaras verrà cucinato a fuoco lento, come consuetudine appunto, sì, in queste situazioni. Faccio modestamente notare che questa tecnica di Angela Merkel di aspettare fino all'ultimo minuto prima poi di salvare, di intervenire, ci ha portato esattamente in questo casino. Nel senso che la Grecia, 2 anni fa, salvarla per quello che era l'esposizione bancaria costava 100 miliardi circa. di euro. Avere invece continuato a dire non si sa se la salveremo, non si sa se la, ha prodotto, oltre a 1.200 miliardi di perdita di valore di borsa nelle borse europee, ha prodotto l'incertezza per cui se non salvi la Grecia forse non salvi neanche il Portogallo, se non salvi il Portogallo forse non salvi neanche la Spagna, se non salvi la Spagna forse non salvi neanche l'Italia. E così è partito il gioco della speculazione sull'euro e anche l'aumento degli spread, che fino a quel momento, Italia inclusa, viaggiavano a 100 punti, 120 punti. No, solo per ricordare che questa tecnica servirà a Angela Merkel in casa, ma ha creato la migliore delle opportunità per la speculazione sull'euro. Grazie a Vittorio D'Aroldi in collegamento con noi da Berlino. Vorrei dare adesso il meteo, la pubblicità, poi passare alla borsa e al prezzo della benzina e petrolio. C'è qualcuno che mi trova acido, non ha fatto vacanza. Sì, l'ho fatta la vacanza, ma quando leggo che tutti i consiglieri del comune di Pescara, la maggior parte, vogliono andare allo stadio gratis e nel frattempo il Pescara Calcio riduce da 100 posti a 25 posti per i disabili allo stadio, mi inacidisco e mi dimentico subito la vacanza bellissima che ho passata. Meteo, passato. Focus Economia. Di nuovo in diretta, 17:33 minuti, manco a farla apposta, mentre eravamo in pausa pubblicità e meteo, le agenzie hanno battuto una dichiarazione di Angela Merkel, la decisione sulla Grecia arriverà dopo il report della Troica, quindi dopo ottobre non vi sarà nessuna decisione sugli aiuti alla Grecia durante il colloquio col premier greco Samaras, per cui adesso Samaras va a Berlino, ma insomma non certo per ottenere qualcosa, perlomeno a livello ufficiale. Dicevo del caro benzina, parleremo tra un attimo, e anche della proposta che è arrivata dall'appuntamento classico ogni fine estate a Rimini del convegno e meeting di Comunione e Liberazione, da parte del viceministro Ciaccia, che ha detto insomma defiscalizzazione. Poco fa anche il presidente Confindustria Giorgio Squinzi ha detto bene la proposta di defiscalizzazione per i nuovi investimenti in infrastrutture, proposta appunto arrivata dal viceministro alle infrastrutture Mario Ciaccia. Prima però la borsa. C'è chi vuole sapere se in vacanza sono andato in Grecia o in Sicilia, visto che abbiamo attaccato notevolmente la gestione della regione Sicilia. Sì, ho fatto proprio Grecia e Sicilia, se può interessare, e quindi non mi è successo niente. Detto questo, la borsa con, come sempre, i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, meno 1,1% Milano, meno 1,30 Parigi, meno 0,90 Francoforte, meno 1,40 Londra, a dimostrazione che oggi Milano non è la peggiore e non fa eccezione. L'America in questo momento perde 0,5%. Radio Cori, Sole 24 Ore, oggi significa ciao Condina, buonasera, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Dopo le parole di Juncker, che adesso abbiamo visto anche quelle di Angela Merkel, insomma, attenzione, non si deciderà nulla sulla Grecia prima di ottobre, tutti hanno frenato, lo spread è risalito a 420, era sceso a 403. Devo dire che mi sembrano comunque più realizzi, cioè vendite dopo crescita che non altro. I cali sono quelli del 2,20% di Monte dei Paschi e di Prismian. E Popolare di Milano meno 2, Parmalat meno 2, Unicredit meno 1,70 come di Assorin, Eni e Fiat Industrial, Atlantia meno 1,60 come Enel, Telecom e Tenaris. Di positivo c'è Finmeccanica più 2,70, Fiat Auto più 2%, Intesa San Paolo più 0,60%. Partirei proprio da Finmeccanica. Meccanica torna a salire, ricordiamo che recentemente aveva toccato i massimi da aprile, qui c'è l'indiscrezione legata alla possibile vendita di Ansaldo Energia, vendita di cui si vocifera da tempo. Recentemente c'è stato questo accorciamento della catena appunto di Ansaldo Energia, un accorpamento dalla catena, un accorciamento che insomma è stato fatto con 6 mesi d'anticipo, secondo l'indiscrezione di stampa di oggi, e che quindi secondo gli operatori potrebbe preludere anche a una vendita anticipata della società. Qui, come è noto, in pole position c'è Siemens, che ha formulato un'offerta da 1,3 miliardi per il 100% del capitale. Ovvio che insomma per un'azienda come Finmeccanica, che in un percorso di efficientamento, di risanamento, incassare una cifra simile sarebbe interessante. STMicroelectronics invece, tra l'altro c'è tutta la vicenda che poi racconteremo se abbiamo tempo, dello scontro tra Apple e Samsung. In sostanza siamo alle ore cruciali per sapere se ha ragione Apple ad aver intentato una causa che vale, pensate, da sole dai 2 miliardi e mezzo ai 2 miliardi e 750 milioni di dollari. Accusa l'Apple Samsung di avere copiato su iPad e iPhone con i tablet della Samsung, ma non sono riuscito a trovare un accordo, nonostante il tentativo dei due amministratori delegati in extremis. Hanno tentato senza un'intesa, comunque ora si affidano alla giuria. Potrebbe arrivare proprio in queste ore la decisione. Al di là di questa notizia di cronaca, ST Microelectronics invece ha avuto una giornata debole per un insieme di notizie legate al settore e soprattutto ai conti di Dell. Sì, diciamo una giornata che poi in realtà alla fine un po' ha rimediato, perché ha perso l'1-2% all'incirca, come il FTSE MIB prima diciamo era sotto, faceva peggio dell'indice generale. Dell, come dicevi giustamente tu, ieri ha dato i dati di bilancio, un secondo trimestre con un utile in calo del 18%, ma soprattutto il taglio delle stime sul fatturato per il 2012, insomma il fatto che una concorrente di queste dimensioni tagli le proprie previsioni ha avuto un effetto negativo per ST. Ancora Fiat più 2, dicevamo Fiat Auto, divergente rispetto a Fiat intesa come camion e trattori, di nuovo l'effetto positivo del Brasile, no? Eh sì, il mercato brasiliano, quello si va diversamente da quello italiano, infatti nei primi 15 giorni di agosto, nella prima metà di agosto, Fiat ha fatto più 32% sulle vendite rispetto all'anno precedente, rispetto all'anno scorso, mentre il mercato ha fatto più 27%. Ancora tra i titoli, Monte dei Paschi ha fermato la sua corsa, ma il titolo ha preso il 38% in questi giorni. Ho visto che anche la Consob vuole vederci chiaro. Beh sì, perché c'è qualcuno nelle prossime settimane ha intenzione di vendere qualche quota, sostenere il titolo ai suoi vantaggi. Beh sì, vendere le quote dopo che il titolo ha fatto più 38 è meglio che vendere la tua azione dopo che il titolo ha fatto meno 38, su questo insomma. Cioè, mi sembra che ci siamo tutti, le ipotesi lì sono due. Alessandro Profumo, presidente del gruppo, ha detto che probabilmente la fondazione ridurrà la sua quota dentro la banca. Dall'altro, il tesoro, al tesoro potrebbe convenire trasformare il prestito che ha fatto il Monte dei Paschi in azioni e vorrebbe dire una quota del 7%. Questo per quello che riguarda MPS, Generali e Mediaset. Invece Generali, diciamo, a perdere lo 0,7% tiene ancora, insomma ieri aveva messo a segno un rialzo molto corposo, superiore al 4% se non mi sbaglio, sulla scia delle indiscrezioni, poi confermate comunque della messa in vendita delle attività USA per oltre $1 miliardo. È chiaro che qui c'è grande preoccupazione comunque all'interno del gruppo triestino per quello che sarà l'esborso di oltre 2,5 miliardi che andrà effettuato nel 2014 per l'eventuale esercizio della call per le attività nella Repubblica Ceca e quindi si cercano di reperire dei finanziamenti appunto per far fronte a questa operazione. Ancora i migliori e i peggiori e in assoluto, dunque risanamento più 21,6, Fidia più 15,20, D-Mail più 11 e poco altro. I peggiori, Telefonica meno 7,30, Centrale Latte Torino meno 4,5, Unipol sulle privilegio meno 4,30. Risanamento, e qui in Zunino, insomma, ci sono voci di un interessamento di Manfredi Catella, no? Sì, di Heinz, insomma, Manfredi Catella è il plenipotenziario di Heinz, che è un colosso immobiliare. Quello che sta costruendo a Milano, per esempio, sì, la parte della Garibaldi, la città della moda, sì, certo. Sì, uno dei pochi complessi che sta vendendo, se confrontato con City Life. Comunque, a prescindere da questo... Dai, non essere polemico, City Life ancora non hanno... No, ma lo dicono i numeri su City Life, quello è il problema. E comunque sul risanamento diciamo sì, ci sono queste indiscrezioni di stampa su un possibile interessamento appunto di Heinz per Santa Giulia. Santa Giulia che non è in una situazione decisamente semplice, anzi lì poi c'è stato anche il sequestro da parte della magistratura, poi c'era stato l'interessamento dell'accordato guidato da Stroppiana, lì sono andati per le lunghe e adesso potrebbe intervenire Heinz, quindi il titolo, che poi diciamo è anche su livelli molto bassi, oggi ha strappato immediatamente, è stato sospeso quasi per tutta la seduta e chiuso a più 21%. Ci siamo dimenticati Mediaset, hanno ragione gli ascoltatori. Cioè. Mediaset, sì, Mediaset oggi comunque ha tenuto, sto verificando adesso, a meno 0,38%, comunque insomma di fronte a un mercato in perdita, su Mediaset continua a esserci degli scambi significativi. A breve capiremo chi ha comprato e se poi effettivamente ha portato a termine la propria operazione, o poi invece è stato un rastrellamento che non è stato concluso. Certo, vedo altri messaggi al 349-238-6666, adesso cerco anche di rispondere. Grazie intanto a Ceo Condina. Noi restiamo in tema di economia italiana, perché oggi, come anticipavamo, dal meeting di Comunione e Liberazione di Rimini è arrivata una seconda conferma, scusate il gioco di parole, della fase 2 che il governo vorrebbe mettere in piedi, e mi riferisco, dopo le dichiarazioni del ministro Passera sul rilancio in qualche modo approvvigionamento e struttura energetica del paese, delle infrastrutture, oggi il vice ministro delle infrastrutture Ciaccia ha detto attenzione, noi vorremmo, se ho ben capito, defiscalizzare i nuovi investimenti infrastrutturali. 349-238-6666 per gli sms. Insomma, il governo tecnico sceglie la platea di Rimini, non è stato il primo, tutti i governi nel passato hanno fatto la loro carrellata a Rimini, vuoi complice il periodo, si sa che i politici vanno anche in astinenza da presenza, complice l'importanza di Comunione e Liberazione soprattutto in Lombardia, non mi interessano le polemiche con Famiglia Cristiana, non è oggetto di questo programma, ma insomma anche quest'anno, anche con un governo tecnico, abbiamo visto il Presidente del Consiglio e poi il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, oggi Vice Ministro Ciaccia, dare in qualche modo l'agenda di quella che dovrebbe essere la fase 2 del governo. Ripeto, oggi Ciaccia, poco fa su questo è intervenuto anche il Presidente Confindustria a Squinzi, ha detto lavoriamo a una defiscalizzazione per le nuove infrastrutture. C'è il nostro mitico Mariano Maugeri da Taranto a Rimini, sempre sul mare diciamo, ma per altri problemi. Mariano, mi senti? Buonasera. Sì, buonasera. Non essere così triste, dai, non dire che no, Rimini è più allegro di Taranto, questo possiamo dirlo senza offendere. Questo insomma, potrebbe essere oggetto di una discussione, anche Taranto è una città di grande fascia. Bellissima, però dico l'Ilva sarà un tema più pesante rispetto sì, certo. a Comunione e Liberazione, mi auguro almeno. non mi fa parlare. Senti, allora, la platea di CL è la platea in cui il governo sta lanciando le linee guida della politica economica d'autunno, la campagna d'autunno, ho capito bene? Sì, infatti, come dire, anche questa è una piattaforma non logistica per rimanere in tema infrastrutture, ma una piattaforma politica densa, importante. La defiscalizzazione riguarderebbe solo quelle opere che non si reggono economicamente, quelle grandi opere infrastrutturali che però potrebbero essere, dovrebbero essere strategiche per l'Italia, una tra le tante, abbiamo chiesto al Ministro infatti di illuminarci, è l'alta velocità tra Milano e Venezia. Non ci sono investitori al momento disponibili perché, come sai, l'individuazione del tracciato ha fatto perdere molti quattrini oltre che molto tempo, e quindi defiscalizzando si potrebbero comunque mettere in moto degli investimenti e attrarre dei capitali che con un costo minore ovviamente riuscirebbero a trovare un equilibrio economico. È un'operazione che il Ministro sottoporrà ai partner europei perché secondo le sue intenzioni tutta l'Europa dovrebbe aderire a questo modello. È un progetto del quale si parlerà venerdì, quindi dopodomani, al prossimo Consiglio dei Ministri, perché ovviamente investito il governo nella sua collegialità. Beh, diciamo che la logica e la ratio è chiara: se tu rischi di non avere investimenti di privati in una tratta perché non ci sono soldi, perché i costi sono troppo alti, piuttosto che niente, come dicono a Milano, meglio piuttosto, cioè defiscalizzi almeno, abbassi i costi e però metti in moto tutto il volano un percorso virtuoso, perché questi assumeranno, ci saranno lavoratori e quant'altro, cioè tra il non aver l'investimento o averlo incassando meno per lo Stato, è meglio sicuramente la seconda, perché comunque con l'indotto, con quello che metti in moto, fai ripartire un minimo l'economia. Il ragionamento non è sbagliato, oltre che creare anche un vantaggio competitivo al paese, perché l'alta velocità, le opere infrastrutturali questo generano. Ma vorrei capire un'altra cosa, Mariano. Insomma, tu hai avuto la sensazione, visto che hai seguito prima Monti, poi Passera, oggi Ciaccia, che veramente il governo tecnico sia pronto alla fase 2? Assolutamente sì, arrivano i primi riscontri dei mercati, dell'agenzia di rating, come abbiamo visto, e i ministri, anche Monti, calcano pesantemente sull'esperienza che ci siamo lasciati alle spalle. Anche Passera ha molto stigmatizzato i 20 anni dei governi, sì, della Seconda, sì, Repubblica. Quindi con questo marcano una differenza, una discontinuità, e insistono sull'andare avanti con i nuovi progetti, con il nuovo governo. Quindi si accreditano, come dire, di un ruolo che nessun altro può portare avanti. A questo punto poi non so come i partiti politici saranno in grado di digerire un atteggiamento di questo tipo, ma temo che sia molto difficile tornare indietro. Sì, anche perché è tutto una passerella giusta anche del governo attuale. I partiti mi sembra che fossero largamente assenti. Lascia stare Formigoni, che Cellino, e oggi era la sua giornata, ma insomma i grandi esponenti dei partiti si sono visti poco in questi giorni. Assolutamente sì, e sempre per restare a Ciaccia, ha annunciato investimenti in infrastrutture da qui al 2020 di 300 miliardi, ecco, quindi più di 6 punti di PIL, e questo è uno dei banchi di prova. Se riusciranno veramente, come sostengono, a mettere in moto questa mole di investimenti sui 4 corridoi europei, 12 porti, 10 aeroporti, ha citato nuove autostrade, e reti ferroviarie, questo potrebbe già dare una scossa notevole all'economia. Grazie Mariano Maugeri, in collegamento con noi da Rimini, buon dove buono. Si tiene il meeting di Comunione Liberazione. Traffico, nel frattempo, mentre il governo annuncia che sta pensando di defiscalizzare gli investimenti in infrastrutture per opere prioritarie qualora non si reggessero i costi, non fossero sostenibili, nel frattempo i costi diventano insostenibili per gli automobilisti italiani, perché oggi, con grande gioia, la benzina ha superato la soglia psicologica, e non solo psicologica, anche fisica, del portafoglio, dei 2 euro al litro. Dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Caro benzina, dicevamo, e per quello che riguarda, no, rido perché insomma vedo molti messaggi su questo, nuovo record per il prezzo della benzina, oltre 2 euro al litro, massimo storico per la rete ordinaria, cioè fuori dalle autostrade. Il record registrato oggi in alcune regioni, scrive il quotidiano Energia, vede punte massime 2,008 euro al litro nel centro Italia e segnatamente in Toscana. E allora parliamo, ahimè, di nuovo di benzina, ahimè, di nuovo, mentre gli italiani si apprestano a tornare dalle vacanze, alcuni anche ad andarci. Tornare sul sesto mistero di Fatima, e cioè perché con un petrolio che costa sostanzialmente come nell'agosto del 2008, cioè 93 euro al litro, facendo tutti i raffronti, il cambio euro-dollaro che è 1,24, allora è 1,58, il prezzo del Brent che era 147, oggi è 114. Li abbiamo fatti, come dice il presidente De Vita, la macchinetta, la calcolatrice l'abbiamo usata, e a noi ci risulta che il prezzo del petrolio sia 93 euro adesso, era 93 euro nel 2008 al litro, scusatemi, al barile, oggi 92 euro al barile. Però il mistero è che la benzina ha toccato, ha superato i 2 euro per azione. E dagli la costazione per litro. E il caro carburante peserà sugli italiani per 770 euro in più all'anno, tra costi diretti più 420 e costi indiretti, per esempio sul trasporto merci. Davide Tavarelli, presidente di Nomisma Energia, buonasera. Buonasera. È in vacanza? No, sono al lavoro proprio per la benzina, per mia fortuna, visto che non c'è tanto lavoro in giro. Ho capito, ma lei ha usato la macchina, no? No, ho usato un aereo per tornare dalle vacanze, un aereo che usano tantissimo adesso, tanta gente, e consuma 200 kg di cherosene ogni 10 minuti. L'ho chiesto prima al pilota, al comandante. Ho capito, ma con questo cosa mi vuol dire? Che mica sono tutti, li paga tutti lei 200 kg di cherosene? No, per carità, anzi, è costato pochissimo. Arrivare a Ciampino a Roma è costato 47 euro. Ecco, da senta, Roma... e per tutti noi comuni e gli altri mortali che sono ancora affezionati all'uso dell'autovettura, lei ci conferma che per la prima volta la benzina supera i 2 euro al litro? No. Non è la prima volta, è da giorni che i prezzi della benzina su molti punti vendita in Italia... Vabbè, allora sto meglio. Sono, no, purtroppo sono anche oltre 2,1, 2,10. Purtroppo in Italia abbiamo 25.000 punti vendita, variegati fra loro notevolmente, sparsi su tutto il territorio, molti sono in vacanza in questo momento e tutte queste persone sanno bene che devo fare il pieno. C'è qualche punto vendita che è più distante, che ha costi superiori e pertanto i prezzi sono più alti. Ma esistono tanti... No, aspetti, questa me la deve spiegare. Allora, alcuni sono chiusi, parliamo fuori dalla rete autostradale, alcuni sono chiusi. Gli altri sanno che ad agosto uno la benzina deve fare perché si sposta comunque di più rispetto a quando lavora e quindi i tabarelli fanno i furbetti? Che fanno i furbetti, no. È che c'è una domanda alta, ci sono anche perché sarebbe un fare i furbetti, come ci insegna il nostro Presidente del Consiglio, non è essere furbi ma essere ladri, perciò devo stare attenti a dire queste cose, è che la domanda è più alta, ci sta può stare in un mercato liberalizzato in maniera selvaggia anche che qualcuno faccia dei prezzi più alti quando la domanda è più alta, ma però ripeto, no, a me basterebbe che ci fossero prezzi più bassi quando la domanda è più bassa, non so, a novembre. No, chiedo. Ma guardi, adesso non voglio esagerare, però paradossalmente... Ma guardi, dopo De Vita lei può dire quello che vuole in questo programma, per cui... No, guardi, paradossalmente accade che mai come adesso la competizione è stata forte. Esistono prezzi, come le dicevo, da qualche settimana, anche non solo da oggi, oltre 2,1 per la benzina, ma ricordiamoci che usiamo soprattutto gasolio. Ma con i super scontoni... arriviamo a dei valori che sono anche di 40 se non 50 centesimi più bassi, cioè questa è la realtà, che è una grande confusione in questo momento, tanto che quello che dice il Presidente del Consiglio d'Oltralpe non è una cosa così assurda, quando ci sono questi atteggiamenti si può parlare di problemi di mercato se non di fallimento, a che l'intervento, l'amministrazione, i prezzi amministrati non sono delle cose così estreme. No, allora, vediamo di capirci, cioè se deve diventare una giungla in cui se tu sai che sei l'unico distributore mi carichi la benzina, cioè, lei citava Ayrault, che Jean-Marc Ayrault, il primo ministro francese, ha annunciato in Francia una modesta e provvisoria riduzione delle tasse sui carburanti con l'obiettivo di far calare i prezzi al distributore. E Ayrault ha anche precisato che il provvedimento sarà preso in attesa di istituire un meccanismo, attenzione, per regolare i prezzi dei carburanti. Cioè, in Francia, così chiudiamo un po' polemici su Mario Monti, il Presidente del Consiglio è andato correttamente a Rimini a dire vedo la fine della crisi, sono fiducioso. Bene, ci dia anche qualche segnale. In Francia l'effetto concreto è che si cerca di usare politiche anticicliche, cioè se c'è la crisi, la benzina continua a aumentare, io ho sempre meno soldi, spendo di meno, i consumi calano, le merci costano di più e via così. Da noi non se ne parla proprio, anzi abbiamo messo le accise per qualunque evento negli ultimi anni. Esatto, è stato l'aumento storico, quello del dicembre dell'anno scorso, più alto in assoluto della nostra storia, poi ce ne sono stati altri. E da noi sarà già un grande risultato se eviteremo l'aumento dal 21 al 23% l'anno prossimo. sentito parlare di riduzione, a parte che anche in Francia sono state modeste, come diceva lei, dell'ordine. No, di è vero, è poco, però insomma, cioè, mi segnalano che il gasolio al passo del Brennero sul lato Austria costa 1,52€, lato Italia 1,80€. Allora, perché finché uno è lì può farla sul lato Austria, però sarebbe bello anche vedere qualche misura, non solo delle dichiarazioni. Guardi, non è necessario, il problema che lei sa meglio di me è il record del debito statale, dobbiamo pure finanziare questi interessi, questa riduzione del debito. La cosa più veloce da sempre in questo paese purtroppo è la tassazione indiretta, la tassazione indiretta. Comunque lei Tabarelli ci ha dato una notizia che ci ha molto rincuorato, cioè non è vero che il record è oggi, c'era già stato nei giorni scorsi. Adesso penso che tutti gli ascoltatori siano molto meglio, perché no, era brutto sapere che proprio oggi, magari era successo nei giorni prima, che c'è una tale giungla per cui nemmeno voi capite bene quando il record dei 2 euro al litro è stato fatto, perché ognuno fa quello che vuole e magari si approfitta anche, io dico approfitta, le dice libero mercato, di alcune situazioni. Grazie comunque al Presidente di Nome di Sma Energia, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.